in primo piano. In questo mercoledì 25 maggio le varie aperture dei quotidiani, il sole si concentra su Fiat che salda il debito Chrysler, questa è l'apertura, e Obama dice è una pietra miliare. E poi per il Corriere, il governo tiene la fiducia, questo il titolo di apertura, Repubblica dietro fronte sui ministeri al nord, così il Messaggero, ministeri stop al trasferimento. La vicenda Fincantieri si trova su alcuni giornali come il Fatto Quotidiano, rivolta Fincantieri qui scoppia tutto, o il Secolo XIX, Cantieri la rabbia di Genova, l'Unità, fronte del porto, e ci sono delle foto di scontri, così come foto di scontri per il Manifesto e il titolo Che c'è in cantiere. La Stampa si concentra sull'allarme della Corte dei Conti, fisco più leggero, un piano per il Sud. Per il Giornale invece la questione del ballottaggio di Milano, l'Islam marcia sul Duomo, questo è il titolo del Giornale, mentre Libero, 110.000 posti di lavoro ma nessuno li vuole, si ritorna sull'allarme dell'Istat. Allora, le due segnalazioni da cui voglio partire, la prima la troviamo su Repubblica, era stata anticipata dal Sole 24 Ore qualche giorno fa, ieri l'OCSE ha presentato, che cosa? Un nuovo parametro per misurare il benessere nei paesi, non più il PIL, non più il BIL, ma il BLI, Better Life Index, un indice di vita migliore. È un'alternativa al controverso e vecchio PIL, è un'alternativa anche al superato, secondo l'OCSE, BIL. E secondo questo Better Life Index, che tiene conto di un combinato di statistiche e percezioni su cosa, 11 parametri, la casa, il reddito, la salute, l'ambiente, la vita comunitaria, il sentimento di insicurezza, ecco dove al mondo, secondo l'OCSE, si vive meglio. Al primo posto l'Australia, al secondo posto il Canada, poi al terzo posto la Svezia, al quarto la Nuova Zelanda, al quinto la Norvegia, poi la Danimarca, gli Stati Uniti, la Svizzera, la Finlandia, i Paesi Bassi. Questi 10 luoghi al mondo dove il PIL della felicità, il nuovo Better Life Index, dice e certifica si vive meglio. L'Italia è un po' indietro, al 24esimo posto, dietro la Repubblica Ceca, la Spagna, il Giappone, Israele, Francia, Germania, Belgio, Gran Bretagna, Islanda, ma davanti a Grecia, Ungheria, Portogallo, Cile, Messico, Turchia. 24esimi, insomma, si può fare di meglio. La seconda segnalazione la trovate su tutti i giornali, una vicenda che, se confermata dalle accuse, è particolarmente odiosa, riguarda un attore, l'attore della soap opera Vivere. La vicenda non è nuova, l'attore Edoardo Costa, la leggo sulla Stampa, sul Fatto Quotidiano, su Libero, tutti vi dedicano mezza pagina. Costa indagato, truffò 570.000 euro ai bimbi africani. È la vicenda di una onlus, Chuck, per la quale ha messo la sua faccia, ha fatto iniziative. Ora però l'accusa da parte della procura è quella dei PM di Milano, è quella di essersi messo in tasca sui 650.000 euro di tesoretto raccolto per questa onlus, circa 570.000 euro per sue questioni personali, anche per il Fatto, il Costa, un filantropo nella rete della finanza, e Libero, la star che ha preso i soldi ai bambini poveri. Per il PM, l'attore di Vivere, Edoardo Costa, si sarebbe intascato 570.000 euro destinati all'Africa. Davvero una brutta storia, se confermata. In primo piano. E allora eccoci qua alle 7:37 minuti con uno sguardo ai giornali. Gli ultimi giorni di campagna elettorale, oggi la politica è un po' concentrata su questo, francamente un po' noiosa, con Bossi che dice i ministeri al nord, il premier si convincerà, questo è il titolo della Padania. In realtà pare che su questa vicenda del trasferimento dei ministeri si sia tutto un po' congelato. Ieri c'è stato un vertice tra Bossi e Berlusconi, con i due che si sono visti, racconta il Corriere, vertice a Roma, Bossi rassicura il premier. Secondo Repubblica, secondo retroscena di Francesco Bei, in questo vertice Bossi e Berlusconi avrebbero parlato anche del futuro. Umberto ha scandito il cavaliere, no? Sempre questi retroscena. La riforma elettorale è una mossa studiata a tavolino per far saltare il governo e rompere la nostra alleanza. Ve ne rendete conto? Ma se pensate che a pagare i ballottaggi possa essere soltanto io, vi sbagliate di grosso. Non me ne starò certo zitto mentre preparate un ribaltone. Mi dovete dare garanzie ora. E tra l'altro Repubblica cita anche un ministro del PDL, che non è citato con nome e cognome, e che avrebbe detto: se lunedì perdiamo a Milano viene giù tutto. Berlusconi a quel punto può decidere da solo di fare un passo indietro subito e governare così la sua successione. Oppure, se insiste a far finta di niente, tempo 3 mesi e qualcuno si incaricherà di farlo fuori comunque. Questo, secondo Repubblica, è il clima che si respira alla vigilia del ballottaggio. Tra l'altro, su questa vicenda dei ministeri registra un'intervista sul Messaggero dell'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, che dice a Paolo Cacace: è una proposta che ho letto sui giornali, ma non vi ho attribuito eccessiva rilevanza, sarebbe un attacco all'unità d'Italia e una proposta che assolutamente non credo possa realizzarsi, sono convinto che non avrà alcun seguito. Gli ultimi giorni di campagna elettorale pare che vengano battuti molto sul tema, almeno per esempio il giornale lo mette in prima pagina, sul tema di rapporti con l'Islam. Gli islamici lanciano la sfida, sfiliamo in Duomo per Pisapia, così titola il giornale. In realtà è una manifestazione che era stata annunciata per oggi, ma poi pare sia rientrata, tanto che il giornale mette in prima pagina: l'Islam marcia sul Duomo. Autore di questa iniziativa sarebbe Davide Piccardo, candidato di Sinistra Ecologia Libertà e figlio del fondatore del movimento dell'UCOI, l'Unione delle Comunità Islamiche. Ma in realtà di questa manifestazione pare che poi sia rientrato tutto, non ci sarà. Accuse anche al vescovo di Milano, Dionigi Tettamanzi, che ha ribadito la moschea, il proprio sì, perché è libertà religiosa. È stato attaccato dal giornale, addirittura è stato bollato di rischio ateismo perché si appoggia, e comunque secondo il giornale appoggia in alcuni aspetti del programma il candidato Pisapia. Tettamanzi ha detto è anche una butade il rischio Zingaropoli per Milano. Insomma, non ha voluto rispondere alle accuse che gli sono state fatte. Insomma, sono, diciamo, gli ultimi giorni di campagna elettorale. C'è anche per questa campagna di patacche, come la titola, come la giudica il Fatto Quotidiano, una querela vera che il candidato Pisapia ha fatto ieri alla procura, perché ha denunciato: ci sono gruppi di persone che vanno in giro a disturbare i cittadini nei metro, nei quartieri, dicono di essere esponenti dei miei comitati, ma non è vero, diffondono volantini falsi, si presentano vestiti da zingari, dichiarano che in quel luogo sarà costruita una nuova grande moschea, la più grande d'Europa. E per tutto questo Pisapia dice: ho presentato una denuncia penale perché queste condotte sono veri e propri reati. Io vorrei una campagna elettorale serena che si confronti sulle verità e non sulle menzogne. Insomma, sta di fatto che Pisapia addirittura denuncia questa cosa. Ci sarebbero dei figuranti che vanno in giro spacciandosi addirittura per finti zingari, per terrorizzare i cittadini milanesi. Sta di fatto che questo è il tema anche del nostro sondaggio, lo ricordo. Ci sarà, c'è anche oggi sui giornali tutta la polemica riguardante le presenze del premier Berlusconi in TV. La GCOM ha multato 5 telegiornali per le 5 contemporanee interviste di venerdì scorso. Berlusconi dice: non mi fanno parlare. Questa sera però andrà a Porta a Porta. C'è un'intervista al direttore del TG5, Mimun, sul giornale, a pagina 6, dice: una multa intimidatoria, noi siamo sempre equilibrati. Io sono con la coscienza a posto, si chiede Mimun: abbiamo intervistato chi? Un terrorista di Al-Qaeda che invita alla guerra santa, un mafioso, un delinquente che insegna ai ragazzi come fabbricare Molotov? Abbiamo intervistato il presidente del Consiglio. E dunque l'AGCOM, che dovrebbe essere un istituto di garanzia nel periodo elettorale, decide sanzioni economiche rilevanti nei confronti di telegiornali che osano trasmettere interviste. Insomma, questo è il tema del nostro sondaggio. Ve lo ricordo, il fatto che Berlusconi, il fatto che ci sia stata questa multa per l'AGCOM, nei confronti di 5 telegiornali per le 5 interviste a Berlusconi, e Berlusconi che anche ieri ha mandato un videomessaggio, oggi andrà appunto a Porta, insomma quello che vi chiediamo anche, vi disturba oppure è giusto, insomma, che il Presidente del Consiglio abbia spazio a parlare. E, tra l'altro, oggi l'intervista più interessante, se si vuole anche di politica, la si trova su Vanity Fair. È il direttore del giornale Alessandro Sallusti che non t'aspetti, perché intervistato da Sara Failaci si toglie dei sassolini abbastanza inspiegabili o comunque clamorosi. Sentite cosa dice Sallusti, per esempio, sulla Moratti. Nessuno ha il coraggio di rinfacciare a lei la disfatta. Era un candidato debole. Negli ultimi 6 mesi non ho incontrato una persona di centrodestra disposta a votarla. E ancora, sentite cosa dice del Bunga Bunga, no? Del Ruby Gate. Penso che Berlusconi facesse delle serate con atmosfera da night anni 50, con lo spettacolino sexy, le sciantose che agitavano il seno davanti al Cumenda e quello che magari metteva le 10.000 lire nel reggiseno. Secondo me ad Arcore organizzava quella roba lì. Se poi andava a letto ogni sera con una diversa, beato lui. Beh, ma anche se era minorenne? Beh, ma uno si immagina delle bambine, ma l'ha vista Ruby? Così risponde Sallusti. E poi Laminetti, sentite cosa dice della Laminetti. È un personaggio inquietante. Adesso sappiamo perché è andata a occupare quel posto. Non è un bel esempio. E Berlusconi è un talento che alimenta la sua genialità anche coi vizi, come Maradona e Michael Jackson. Fondamentalmente sono dei pazzi. E poi ancora, il comportamento sobrio di Berlusconi, dovrebbe avere un comportamento più sobrio. Berlusconi si è impegnato a fare una politica a sostegno delle famiglie, non a salvare la sua di famiglia o a non scopare. Insomma, è ancora Sallusti che parla anche del suo rapporto con Daniela Santanchè. Non siamo fidanzati, se vuole saperlo, ma siamo sicuramente più che amici. E poi ancora della Moratti. Guardi, a gennaio scorso non la conoscevo neppure, mi ha chiamato per un caffè a Palazzo Marino. Dopo qualche giorno mi telefona e mi dice: direttore, forse possiamo darci del tu. Lì ho capito che era in difficoltà, perché se una così scende dal piedistallo e si abbassa a dare del tu a uno che le sta evidentemente sui coglioni, come dire, ho capito che era veramente in difficoltà. Malgrado tutto, penso davvero sia molto meglio lei di un pericoloso estremista come Pisapia. Vabbè, però insomma, Sallusti che si lascia andare a considerazioni anche la vicenda Minetti, Ruby Gate, un Sallusti sicuramente che non t'aspetti. Sulla questione politica devo anche segnalare, prima del traffico, tanti articoli sulla vicenda che torna e che riguarda l'ex ministro Scajola e il costruttore Diego Anemone, perché tutti i giornali riportano del fatto che gli inquirenti hanno trovato dei file nel computer della segretaria di Diego Anemone, il costruttore. Secondo questi file ha pagato case, bollette di luce, gas, vacanze, le contravvenzioni, i conti dei fornitori, comprato auto, divani, tendaggi, addirittura un frullatore, pare. Questo secondo la procura di Perugia ha fatto Diego Anemone nei confronti di tante persone per ottenere poi in cambio appalti. Secondo queste accuse ci sarebbero anche i 900.000 euro per l'appartamento di Scajola a Roma. E poi anche bonifici e soldi per Pietro Lunardi, auto di lusso per il cerimoniere di Sua Santità Monsignor Francesco Camaldo, fattura da 30.000 euro per Olivia Bertolaso, la figlia dell'ex capo della Protezione Civile, spese per la famiglia di Angelo Balducci, oltre alla casa gli arredi, le macchine della moglie, le utenze, l'ICI, le pendenze con Equitalia. Insomma, secondo tutti i giornali, G8 spuntano altri soldi all'ex ministro, ora Scajola rischia il riciclaggio, così anche Repubblica. Sul Corriere invece la caparra per la casa di Scajola, ecco i regali della nuova lista Anemone. Insomma, torna questo tormentone delle vicende Anemone, Scajola e non solo. In primo piano. Allora, la notizia economica del giorno sicuramente è il fatto dell'allarme della Corte dei Conti riguardo alla finanza pubblica e allo sviluppo. Ne parla Dino Pesole a pagina 9 del Sole 24 Ore. La perdita permanente sul PIL in Italia come pesante eredità della recessione 2008-2009 di 160 miliardi fino al 2013. Una perdita permanente in questo contesto, scrive la Corte dei Conti, si segnala appunto la necessità di che cosa? Beh, si segnala intanto un aspetto positivo, la spesa in calo per la prima volta dal 1980, ma pesano i tagli in conto capitale e poi soprattutto per diciamo sistemare i conti, per essere al passo e rispettare gli impegni europei, che cosa dovrà fare l'Italia? Beh, dovrà fare uno sforzo paragonabile a quanto si dovette fare alla metà degli anni 90 per poter essere ammessi nella moneta unica fin dal suo avvio. In concreto vuol dire che a giugno arriverà una manovra da 40 miliardi di euro, sulla quale per il momento le bocche sono totalmente cucite. A pagina 8 del Sole, Davide Colombo e Marco Mobili cercano di capire di cosa si tratti. Sabato scorso, dopo la notizia del taglio di Standard & Poor's sul nostro paese, già il ministro dell'economia Tremonti aveva fatto mettere per iscritto nella nota di replica al Tesoro il fatto che il governo manterrà gli impegni presi. E per quanto riguarda il bilancio pubblico, aggiungeva, sono in avanzata fase di preparazione i provvedimenti mirati al rispetto dell'obiettivo di pareggio di bilancio per il 2014, provvedimenti che saranno approvati entro luglio dal Parlamento, e dunque si parte da qui, racconta il Sole, per inquadrare tutte le anticipazioni battute ieri dall'agenzia di stampa di una manovra del valore cumulato di 40 miliardi di euro per garantire il raggiungimento di un deficit PIL nel 2014, close to balance. Questa manovra triennale, in linea con interventi sui saldi messi in campo negli ultimi anni, verrà varata entro giugno. È una manovra di grandi sacrifici, si immagina. Staremo a vedere di cosa si tratta. Per ora c'è l'annuncio, ovviamente i dettagli sono pochi. E c'è anche tutta la tematica legata a Fincantieri. Questa è un'altra notizia economica che è diventata ben presto anche una notizia di ordine pubblico, con il fatto che Fincantieri ha previsto 2.551 esuberi e anche tra l'altro la chiusura di due stabilimenti, Genova Sestri Ponente e Castellammare di Stabia, il ridimensionamento di quello di Riva Trigoso in Liguria. Come annunciato l'amministratore delegato Bono, questo ha portato subito a degli scontri, anche scontri fisici tra lavoratori e polizia, li abbiamo visti, tutti i giornali li mettono in prima pagina, le immagini di questi scontri, anche volti sanguinanti. Tra l'altro c'è il ministro Romani che ha convocato subito, il governo ha convocato subito le parti, che è intervistato dal Secolo XIX a pagina 13, nessuno mi ha mai parlato di cantieri da chiudere, quindi in qualche modo prende le distanze dall'annuncio dell'amministratore delegato Giuseppe Bono. Non so se Bono abbia detto una cosa di questo tipo sulla chiusura. Noi abbiamo per Genova soprattutto un programma per il ribaltamento che vale 300 milioni, in cui sono coinvolti la regione, il comune, l'autorità portuale, Eni, Fincantieri, il governo. Questo accordo non prevede, lo ribadisco, la chiusura. Però ieri, chiede Samuele Cafasso del Secolo XIX al ministro, però ieri Bono ha detto così ai sindacati: io so quello di cui Fincantieri ha parlato con il ministero. Dunque c'è anche questo giallo. Il ministro Romani dice: in realtà io non so nulla per quel che riguarda la chiusura. Per quel che riguarda invece la situazione a Castellammare di Stabia, il sindaco, che è un ex magistrato antimafia, Luigi Bobbio, denuncia anche: sono stato sequestrato in comune, la camorra è dietro la protesta. Intervistato a pagina 15 del Corriere della Sera, dice: quando è stato raggiunto dal Corriere del Mezzogiorno, cioè l'edizione appunto diciamo locale del Corriere, ha detto: sono stato sequestrato, per miracolo ho chiuso la porta della mia stanza in comune, ma se metto il naso fuori di qui mi fanno la pelle. Abbiamo una statua con un busto di Garibaldi sullo scalone dell'entrata del comune, l'abbiamo trovato con il busto distrutto e la testa messa nella tazza del gabinetto. E poi dice appunto: la camorra è dietro la protesta. Insomma, una situazione che rischia di diventare anche una situazione di ordine pubblico non indifferente. Devo chiudere tra quanto? Due minuti forse? Devo chiudere tra due minuti? Sì, guarda Valeria Bernardi e mi dice di sì. E allora c'è solo tempo per segnalare che cosa? Vi voglio segnalare questo. Vi ricordate la vicenda dei due carabinieri brutalmente aggrediti da quattro ragazzi, uno dei quali solo maggiorenne, gli altri minorenni, a un fermo, a un posto di blocco in provincia di Grosseto? Si era parlato anche di rave party, eccetera. Uno dei due carabinieri è in coma. Ebbene, il Quotidiano Nazionale dà una notizia interessante. I violenti del rave pagano le famiglie. In quattro assalirono i carabinieri a Grosseto, che cosa ha fatto la procura? Ha sequestrato alle famiglie dei quattro ragazzi 500.000 euro in vista del processo dei figli. È un sequestro conservativo di beni per un valore appunto di 500.000 di euro. Un punto importante messo a segno dagli avvocati dei due carabinieri. E questo perché? Perché se poi ci sarà una condanna, come insomma, è presumibile, visto che il dato di fatto l'aggressione c'è stata, da parte delle persone che ora sono indagate, ci sarà poi non solo la pena ma anche il risarcimento della vittima in sede civile, e allora con questo sequestro conservativo alla fine a pagare, nel caso di una condanna e poi di un indennizzo da pagare, saranno appunto le famiglie. I violenti del rave pagano le famiglie, lo trovate sul Quotidiano Nazionale a pagina 19.